sera, ci sia. C'è qualcuno qua? Sì. Allora, ti ho fatto la fagata a casa, mi sto venendo di fare il culo. Però fa una festa, compleanno e cosa, non facevano niente. Molte volte per 50 euro succedono casini. E ne pagano i 4 luci in più? Ah, salta. Scusami, non l'ho fatta apposta. Voglio tutto a vedere in bici, se sa cosa. Ma l'ho apposta, Vabbè, sto usando il 48 adesso. 48? Ma è normale quello? Sì, sì, di quelli normalissimi. Non è va bene. Ma che baratto, mi. Te l'hai comprato? Oh, non è che me l'ho proprio comprato. Vabbè, te lo puoi anche modificare. Ma rimane, lo voglio originale, lo voglio. Bene, meglio. Ma 5,50 non si può aggiustare? No, negativo, purtroppo no, mi dispiace molto, mi dispiace. Però questo qua me lo tengo originale, anche se prende colpi non mi interessa. Se sento gente uso la Superstar. Cazzo, ma quel bambino sta dormendo da un bel. Troppo vado a svegliarlo, sino stanotte mi vado a educare a cazzo. Il bambino gli fa più bene dormire che mangiare, lo sai. Ma è dormendo di troppo, da quel casino lo guarda a me. Dorme anche di no. Magari ha giocato e si è stancato. Se non svegli si diventa di malumore, non ti conviene svegliare. È mia, adesso si è girato, si è tornato. Si è girato, Ogni altro si gira. Ma poi fa casino di notte, ho già. Perché non dorme la notte? No, comincia a giocare. Ta ta ta ta ta ta ta, fa casino. Che ha fatto? L'ha 48 con l'MB più 4 questo. Cosa? Allora, 48 con l'MB più 4. Prova. È questo. E prova. Sto già provando. E come? Non si sente. Lo sto già provando. Lo sarà un po' di più, troppo rimbomba. Ehi, a me già mi piace il battesimo. Come do, no, va. La moto già va bene, a me lo spinge bene. È un bel fuoco. Così sì, va meglio. Via. Sì, capo, no, già. No, mi dico la verità. Stavo cercando una persona, mi ha procurato, lo stavo sempre cercando un 48 normale, perché quando sarà preso il babbo, a me piaceva, anche se pigliava il goepi, ecco, però se non c'era altra gente in altri canali, a me mi piaceva molto, anche per il tipo, l'estetica e tutto. Solo che cavolo, cioè gli dura date là, se no a me andava bene. Che mi era in disuso. Oh, guida, aveva potuto una capolata, mi ha dato una rabbia quel giorno. Ma va proprio a comprarmi la roba, io. Non avevamo tutto, anche lineare. Penso che ha bruciato l'antenna. Quanto ci sono? Un attimo, era il bambino, lo stavo guardando, lo stavo. Una rabbia quel giorno mi ha fatto venire, quando ha preso quello scatolone. Mi ha detto, la roba dimenticata, non ti dinni, non mi pensa più, fai finta che non esista più. Cazzo ha detto della rima, cazzo, ma quella roba l'ho anche lavorata io, cazzo. Sono incazzato che mi è venuto quel giorno. Era un carattere, una padronanza. Cavolo, ma la roba non era solo sua, la roba era anche la mia. Cavolo, io non ero assolutamente d'accordo. Solo che è da brutto, allora ho detto, cazzo, mettiamo la penna su, ma cosa cavolo di nato, ha visto io problemi. Mi l'ha giudito e la auguria, senza nessun problema. E lui che si faceva le segmentare. E va pure magari di bisticciare di cose. Signora Redda, vera non più male, ma io l'avrei messo lo stesso. Chissà, la mamma di Pesciuri. No, quella di sua al secondo piano. Magari avrebbe rotto le scatole quella, ma poi non avrebbe successo niente. Hai visto che che io ho la mela più buona e poi mi ci dà guru. Vabbè, se non disturba la televisione. Ah, cosa disturba? Luce in necine. Ho fatto la cosa per lungo e largo, non ho fatto i guai, non fa niente. Anche perché lì qui l'ho schermato, quindi io non disperdo e non va nessun difetto, capito? Vabbè, certo, quello vuol dire uno. Per evitare, ho fatto tutte le prove, per evitare la televisione, ho atteso, ho già attaccato roba a bomba ai nocchi, per vedere come va, no, grazie a Dio non è successo niente. E nel tuo bisogna vedere il lasso, perché nell'altro giro succede nell'altro caso? No, già mi sono informato, già, non ho fatto io, mi sarebbero già venuti a bussarmi la porta. Ma se me la bussano lo stesso, mi interessa. Sarebbero già venuti, poi nell'altro palazzo ci sono gli amati, tutta roba distante, molto molto distante. Quindi non disturbo. Adesso ce l'hai anche più in alto, eh? Adesso è anche in alto, quindi ancora meno. Avanti che vuole entrare. No, mi sento un po' più importante che noi. Io sento un battimento. No, io quello no. Ma come si dice a Luca? Ma faccio proprio. Non si capiva cosa dice. È normale, non è sul casino. Vedo che se la farai debba entrare. Io per entrare qui ogni giorno alle 6:30 circa, mollo e accendo qua. Se no potrei stare stasera a cantare. E va a poter abbassare la gara a cantare. No, non mi abbassa la gara perché da noi praticamente facciamo giochi, facciamo un po' di tutto, contest, con premiazioni, con tutto. E ti vede la gara di cantare tutti gli altri. C'è la giuria che ti premia, ti mandano regali, eccetera. Ma sempre sul far market. Avevamo dovuto parlare di Dimmo, ma che ne ho molta voglia, non so neanche più scendo come, non so che non è loco, i debiti sono tanti, per colpa di Gabbi, di mamma mia, stamattina ho visto una persona, cazzo, lo sai come ci avevo la faccia, e se ho visto io rovio lui di la ripidare, cazzo, me la prende la gana, cazzo, di attaccare al muro, me. E sono uscito veloce. E io ti ho preso una. Non ci vai a bussare la porta. Era andato a toccare la Iana, io ogni tanto ando a venire. Ogni tanto andato a toccare la Iana. Era l'amica Giulia che era in occhio, era quella falsa di merda. Che la notte io non lo sapevo perché sennò aveva bigliato, mi avrei buttato giù la porta. E mia sorella che mi ha fermato, se no te l'abbia buttata. Cazzo, era successo un casino, era successo. Gianluca, che cosa ha creato, mamma mia, guarda, ma parla nemmeno, cazzo, un po' questo cavirinato, ma chi la compagna? No, l'amica. Ah, che persona brutta, cazzo. E tu, io mi tiro la tua vita a tutti i diti di Rorisio. Stai con tua moglie, con tuo figlio, e mi tiro la tua vita. E cammina innanzi senza guardare dietro. Ma le odio quelle persone già. Ma fatti scivolare tutto addosso, tanto ti faccio una mano e basta. Ti faccio scivolare tutto addosso. Nel senso che tu c'è la tua famiglia, goditi quella tu. C'è la fortuna di avere la tua famiglia. Goditela. Fin quando poi godita. Mamma mia, quanto li odio, vero? Guarda che è una fortuna avere un bambino, avere una moglie e cose, è una fortuna. Ha ragione, adesso voglio fare una prova tra un po' per vedere se funziona. Vabbè, mi canti 2 minuti. Il lavoro come va? Non ho capito. Il lavoro come va? No, dovrei andare a Gantellino, l'8 e 9 mi ha detto. Chi c'è? Oh, questi cazzo di... Mamma mia. Chi è che mi rumusco? Non è possibile. I canti gialli non è sul cuscetto. Ma hai già. Mi piace il coro di musica, quello sì. Hai molto avrato il mio. Cantare, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na io la conosco. Hai detto un attimo che cambio un attimino, facciamo la prova a vedere se funziona. Cosa deve funzionare? È una cosa, aspetta. C'ho il gas, io. Devo provare se funziona. Prova. Ah, c'è sempre boom. Già. No. Allora è dire questa cosa. Sento, c'è col gas, il 9.30 mi arriva più prima, il 9.30 c'è adesso. Grappa, grappa. Guarda, e si sente che si è attaccato. Perché saturazione c'è? No, un po' di compressione ce l'ha. Aspetta un attimo che vado a picchiare a piccolino. Ok. Arrivi a 9.50, appena appena più avanti a 9.50, ma poco poco. Non sei 9.60 come ieri. Ieri avevi dei picchi da 9.50 a 9.60 quando attaccavi. E vabbè, magari, non lo so, c'è qualche stranezza nell'aria. Ma io adesso mi corico, non mi domandavi un segnale che facevo un buchetto. Guarda a vedere, adesso cambia tutto, vero? Ola. Fai, guarda che guarda. Ola 3, prova. Ora se non vesce sa. Te l'ho detto. Oh, viva la televisione, ma allora, abbiamo finito. Beh, Emanuele. Cazzo, da la televisione, ma cartugno. Davvero, Luca di Buru. Cazzo, si fa alle 5, ora a ora. Stiamo trasmettendo un nuovo programma. Ora sentite da Emanuele che sta vinto il televisore. Radio Baccano, bene, Luca. Oh santo Dio benedetto. E me Emanuele, che te mi conta? E me io ci devo il posto. Cazzo, arrivare mi ha fatto pure il giù, arrivare. Cazzo, qua c'è un carino, arrivare. No? E io ho un amico che fa tutte le notti. Fa tutte le notti, solo di notte lavora. Ormai sono solo di notte. Ormai questi servizi sono solo di notte. Perché di giorno fanno i pompierati di giorno. E lui lavora alla Confcommercio, mi pare, dentro però è la verità. Sta al calduccio. Vedi, questa bene, cazzese qua, dopo fuori la tarocca. Sì, ma già ne ha fatto anche lui di turni fuori. Adesso ha detto, ma lo pagano poco, lo stesso, incontinente. E nell'Afghanistan Lo pagavo poco lo stesso, si lamentasse perché non fai straordinari, non pigli manco 1000 euro al mese. Ma che cosa diceva che questi lavori qua sono sotto pagati? Si stanno lamentando tutti, si stanno lamentando tutti, anche quelli dei cappuccioni, si stanno lamentando che non si può pagare cazzo una guardia per 5 euro all'ora. Stanno bene quelli che lavorano all'INPS, quelli della cooperativa, quelli si individuano anche tutti. Perché ci lavorano la mercoledì, ci dividono gli utili a fine anno, mi toccano anche 7.000 euro di utili. Fanno bene sì. Ma non si può pagare una guardia così, fa almeno 10 euro l'ora, ma la componente è sempre. Anto, 10 euro l'ora, ne prendono anche quelli che fanno le pulizie, mi dicevo, non è che, non ho niente da dire, però... Il lavoro è molto più rischioso per loro. Già, ed è un rischio. Quando tu lavori di notte, poi è sempre qualche macco imbriaco, qualche scemo, che piglia la ragione, c'è cazzo di fare qualche macchina. È sempre un rischio, magari vuole rubare lì. E tu fatti 5 euro, cavolo, fatti 5 euro ti sei arricchendi la vita. Lavorare di notte è sempre un rischio. Bisogna tenere la tensione alta, bisogna stare. Io devo andare travagliato di notte, quindi lo so. Cioè, ci sono una massa di bastardi in giro. A me mi è successo una notte, grazie, che da poco non partiva la rita, senza neanche cagarlo a questo. Pigliandomi in barocuro, io lì facendo la guardia ambientale, cioè lo supporto alla guardia ambientale, grazie che ti bene non mi dai pigliando in barocuro, mi danno il biglietto. E cosa gli ho detto di stare lontano da me, gli ho detto. Di stare lontano da me, gli ho detto solo. E cosa? Però intanto l'ho rischiato a cazzo che passi alla rita, da un ritiro di polizia, carabinieri e tutto. Perché noi poi avevamo il numero per chiamare. È sempre un giramento di palle. Ci sono sempre quelli attaccabia, la notte si sta. E ci sono le attaccabia. Purtroppo non rispettano chi sta lavorando. Non rispettano no. Mio Emanuele è troppo dire più di me, che ne ha fatto anche più anni di me. Chissà quanti cagazzi nelle feste, nelle cose, ci ha trovato. Cosa puoi fare? È un giramento di palle. Cioè, è veramente una cosa incredibile. Nei paesi che si imbriagheggiano alle feste, lui... Ma chi si può impastorelli lì? Molte volte hanno rispetto, anche se sono ubriachi, la verità, hanno rispetto. Molte volte non è così, mi fanno per senso di sfida, mi lo fanno. Poi mi sono al campanello. Vabbè. Ma dove va Emanuele? Non è un posto dove ci passa gente, vero Emanuele? No, lì è solamente, siamo nei campi. Allora con che vecchiaia di zingara fura rame. Sento che c'è tanto rischio. Zingari, romere, polacchi, di tutto quei. Ma sembra più me santo, sì. No, abbiamo finito lì, adesso sono lì a Pongata Montana. Ah? Nelle curve per andare a Castelsanto. Lì sto. Ha rimanuto tutta la notte, sono entrato alle 5, ho smontato alle 8 di stamattina. Ma dove ci sono i pastori dell'Eren? Bravo. Visto, proprio quando vedi l'hotel, questo hotel Campi che ho portato a montare, per il cappello, lì sono. Io andavo a pescare lì, poi ci avevano chiuso il cancello, non ci facevano più entrare. Lì ci sono le acque calde e peschi bene. Lì sono andato un paio di volte lì a vedere, perché siamo lì sul cantiere lì. Ci sono le bobine di rame lì. È bello lì comunque. Cattano, lì si pesca bene, anche perché è un posto chiuso, non ti fanno entrare. Che sono le assire? La centrale dell'Ener, quei vascoli che ci sono riempiti di orate. stava a guardare giù, se faceva entrare a questo tipo in moto carrozzella, tornava, quando ritornava c'aveva 6-7 orate, quasi 10 anni, ne regalava una e via, è fatto il gioco, ho pagato il biglietto. Lo gioco a chi lo conosceva, lo faceva entrare, non poteva entrare, faceva entrare lui, andava in quei bastoni, ha detto che ci sono i ricci, e si è formato l'habitat marino. Dai, sì. E adesso dovremmo finire questa settimana qua, lui dovrebbe fare un altro contratto nuovo, perché ha preso un altro lavoro e non si sa ancora dove. Ma te ti tengono anche se non fanno altri contratti, oppure solo se fanno i contratti ti tengono? No, adesso ci mettiamo in cosa, se il lavoro si ferma, in disoccupazione, poi a gennaio prende questo appalto qua, riprendiamo, capito? Ah, ecco, ma pochi appalti così? E prende lui, in pratica prende lavoro stagionale, lavoro estivo, capita nei campisti, come ho fatto, campisti e lavori in corso. Ma adesso ce l'ha la pistola, sì, si è armati. No, lo si è armati, magari, perché si è armati, per carità. Un marito di Rubicco, va, c'è stata la macchina. Ma scusa, se qualcuno ti aggredisce, credo che fa manco i figli. Non puoi fare niente, tu devi subito chiamare il carabinieri, tu non puoi neanche interagire. Tu quando vedi qualcosa di strano, prendi e chiami il carabinieri. Se è stato armato, era diversamente la cosa, dovevi bloccarlo. Sì, che attaccano i carabinieri, da di tutto, furato, mi ce ne deve rifurare, di e tutto, poi... Perché ti chiedi i carabinieri vengono subito, non è manco bastoni. Neanche non lo so, già lo so che i carabinieri vengono quando è finito tutto. Io ho sentito il discorso di un carabiniere una volta che mi ha lasciato con le mani. Ha detto che quando richiamano è a Roma, ma è di Sassi. E a Roma, quando li chiamano a fare rapide, fanno il giro più largo, dicono che sono in una zona, invece sono vicini, magari, e poi di lui in un lago, ma non ha ciappano. Lo so, io un giorno stavo facendo il servizio, verso la banca la notte, e avevo appena smontato, allora, ma lì a Milano ci sono parlato, cattivo di lui. Tanto ci sono entrati con una ruspa e ci hanno impiegato un banco, ma beh, in giro di 10 minuti ci hanno parlato tutti, il carabiniere già che era già lì, dopo di un'ora. Fate il conto, e voi eravate dentro? Io avevo smontato la mattina presto, e dopo di un'oretta è stata via la pescatura, già vi hanno impiegato un banco. Ti hanno tentato quando te ne andavi? Guarda cazzo che andavi per i carabinieri, cazzo si stanno bucando, manco ma te ne andavi via. Intanto non sono venuti pure io. Ah, ma per carità. Comunque è sbagliato non essere fare servizio, non essere armati, specialmente di notte. No, ma io adesso finisco questi servizi qua. Dopo se mi vuole ancora mi paga come che mi devi pagare, se no se siete di mucunusi che non comprate nulla, infatti non ce ne manco. E niente, io per il primo non ci lavoro così, non ci lavoro più assolutamente. Beh, è uno sfruttamento in effetti. Certo sfruttamento, anche sfruttamento, certo 15 ore mica vogliono fare o già. 15 ore voi lo fate, poi adesso viene sorpresa ancora più. Sto sempre in piedi, senza poter fare niente. A me adesso finisco, mi faccio la nasi, tu se mi escono i servizi come facevo sempre all'ultimo dell'anno, i concerti, li faccio anche qui. Beh, fai bene. Se tu hai qualche passato guadagni di più, fai bene che ti nasci. Se tu sei a farti sfruttare da loro magari guadagnano bene. E capo vi danno quello che vogliono. Allora loro a persona, a te ti danno 5 euro all'ora. Loro a persona di ognuno di noi si prende la media di 25-30 euro all'ora. Fate un conto. Si arricchiscono solo loro, là. Guadagno per darmi niente, non vedrai tu, no. A te ti danno il piso, e invece per darmi Roberto Pacco. Ma è esagerato. Darmi le briciole. Dammi metà panino, grazie. Io, guarda, questo. Quando lavoro che ci mandano in integrazione, poi quando mettono la chiave che c'è altro lavoro, dico sì, ma la pagano mai. Se dice sempre quella, no, peccati a superare. Ma l'assicurazione a guidare. Per forza di lavorare assicurata, tanto, ma se c'è sta. L'assicurazione in questi lavori è la prima cosa che devi fare. Ma non manco un issa qua. Sì, vabbè, finito quasi, Cazzo, ne siamo un anno, via. Ma non si può, ma un mese a Roma, che cosa ne la bocca a un mese? Allora, se tu fai 15 ore ogni giorno, a me se ti prende quelle 1200-1300. Quanto vai? Eh? A Roma si riesci a tirare la benzina, tutto. La benzina non se ne paga, no? Ma come ti fai? Cioè, ma come vuole di rame a Roma, a Larghetta? Non so che ci vogliono su, lo so, ma per quello che mi sono rotto le palle. Vediamo, poi me ne vado in casa integrazione e poi vediamo un po'. Se mi dà quello che dico io, se no ce la prendo. Casa integrazione è meglio me, a chi non prendi nulla e ti incasci di là. Tanto vi vuole benzina, vi vuole tutto nella macchina. Che fai? Ma che c'è niente già su una davvero, sono così, sono tutti così. Ma pur vedi però da non vuole pagare a porto così, si devono va a pagare bene, si devono da chi ci bassone, non vuole una condizione da niente di non da bene, dai. No, non so. E per chi c'è un altro secondo? Avanti già. Ehi, se riprendo Antonio, ci sei. Ehi, dimmi. Dimmi, che ore sono? Ti devo portare il scale, meno di un mese, sono 19:21. Tra poco ti pongo la cosa in forno, mondo. La farina in forno. Va bene. Scendi buona, me la so convendio, se corre per me non vedi di nato. Tra poco taglio la ziota, la salsita, la ziota, e via. Ma la farina faccio? Stanotte tocca, sto già scaldando il forno, sto che era freddo. Ehi già, avanti. Avanti. Tra poco, quando, hai detto 5 minuti, hai detto, tra poco quando è, come dice, buccia la ziota, la salsiccia, e via, la stanotte ci vuole salsiccia, il buon goloso tutto in mezzo, e siamo magnete. Ci vuole una mezz'oretta e siamo magnete da voi. Cane, vabbè, dai, ci chiamo, vai, buccia la ziota. Mm-hmm.